Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia. Ci ritroviamo in diretta anche questa sera, come sempre, nell'appuntamento quotidiano in cui vi raccontiamo come è andata la giornata economico-finanziaria. Vi dico subito che in borsa le cose sono andate bene, soprattutto per quello che riguarda Milano. Il quadro internazionale rimane invece contrastato perché l'Europa è a segni diversi. Parigi è positiva, guadagna lo 0,2%, Francoforte perde quasi mezzo punto, Londra perde quasi un punto, sugli Stati Uniti invece abbiamo un quadro negativo anche oggi, esattamente come è successo ieri. Da qualche giorno Wall Street perde smalto, ma siamo in agosto, probabilmente anche negli Stati Uniti qualche operatore vuole godersi qualche giorno di vacanza e prende profitto dei rialzi, appunto, che ha visto protagonisti i listini statunitensi, che sono ancora appunto sui loro massimi storici. Data molto male questa mattina invece a Tokyo, che ha perso il 4%, cercheremo poi di capirne le ragioni, ma in ogni caso qua questi segni differenti sui mercati stanno anche ad indicare incertezza, posizioni differenti e anche interpretazioni appunto differenti su quelle che saranno le politiche monetarie delle banche centrali in autunno. In tutto questo Milano guadagna un punto. È nettamente la miglior piazza d'Europa, positiva da stamattina. Oggi a guidare i rialzi intanto il consistente recupero di Telecom Italia, più 4,5 punti dopo i forti ribassi degli ultimi giorni, seguiti a tutta una serie di elementi, appunto la diffusione dei conti del semestre che sono stati abbastanza deludenti per la comunità finanziaria, poi la voce di un possibile aumento di capitale in arrivo, l'incertezza sullo scorporo della rete e tanto altro ancora. Beh, oggi il titolo rimbalza. Molto bene anche molti titoli del settore bancario. Continua a correre Unicredit dopo i conti di ieri, bene anche Monte dei Paschi, UbiBanca, il Banco Popolare, insomma tante buone notizie da raccontare. Chi si è fermata oggi è stata Mediaset, meno 2,70% per il Biscione, poi analizzeremo questa seduta. Ed una nuova battuta d'arresto l'ha segnata anche Saipem, meno 2,48%, al di là delle novità giudiziarie degli ultimi giorni. Oggi arriva anche la notizia dell'impugnazione da parte della Consob del bilancio 2012, perché la società non avrebbe iscritto correttamente alcune voci appunto di bilancio nel bilancio appunto dello scorso anno, alcune voci nel bilancio dello scorso anno, e quindi ha chiesto chiarimenti alla società, e nel frattempo appunto in attesa che la società li dia, il gruppo oggi ha perso in borsa altri 2,5 punti. Parleremo ancora di economia italiana, perché come ricorderei ieri vi abbiamo dato conto del dato sul prodotto interno lordo nell'ultima appunto rilevazione trimestrale. Su base annuale appunto c'è un calo del 2% e complessivamente ieri abbiamo sentito Confindustria, il dato acquisito sulla decrescita del prodotto interno lordo italiano per la fine dell'anno rimane all'1,7%. C'è stato però qualche segnale di recupero dell'economia italiana che così è un po' emerso dal dato sulla produzione industriale sempre diffuso ieri. Allora abbiamo un po' cominciato a sentire qualche economista per capire come la pensano. Dobbiamo cominciare a crederci sulla luce in fondo al tunnel, i segnali positivi ci sono, in molti sono d'accordo sul fatto che saremo arrivati al punto di svolta. Anche ieri presentando un po' il suo bilancio dei primi 102 giorni di governo, questa convinzione è stata espressa anche da parte del premier Enrico Letta, ma adesso bisogna capire come si può sfruttare al meglio questo momento discreto. Intervisteremo più tardi un economista, appunto il professor Bruni dell'Università di Torino. Approfondiremo il tema Saipem e poi approfondiremo un tema che è emerso dalla discussione parlamentare di questi giorni, in cui è stato, tra le altre cose appunto che ha fatto il Parlamento, ha convertito in legge anche il decreto degli inizi di giugno, quello ricorderete che ha introdotto i nuovi eco bonus per chi ristruttura la casa. C'è tutta una polemica che è nata intorno al certificato alla certificazione energetica appunto che ogni casa deve avere, soprattutto se questa è oggetto di compravendita immobiliare, una polemica tale che oggi Confedilizia ha diramato a tutti i suoi associati sul territorio un vero e proprio diktat: non stipulate contratti di locazione fino a quando questa faccenda non si sarà chiarita. Ed è talmente nebulosa che abbiamo appunto ritenuto necessario stasera dedicare a questo tema anche un approfondimento. In tutto questo, se volete commentare i fatti del giorno, lo potete fare al 349-238-6666. E adesso andiamo alle notizie in breve della giornata. Cominciamo come sempre con le materie prime. L'oro prosegue il suo trend di discesa intrapreso da qualche giorno. Le quotazioni del metallo con consegna immediata hanno perso di nuovo stamattina sui mercati asiatici, arrivando a $1,273 l'oncia. L'andamento è stato determinato, dicono gli operatori di mercato, dal rafforzamento dei timori di un graduale ritiro degli stimoli monetari da parte della Banca Centrale Americana. Dall'inizio dell'anno, dopo qualche breve tentativo di recupero, le quotazioni dell'oro hanno lasciato sul terreno circa il 24%. Stabile invece sui mercati americani il petrolio a $104,86 al barile, leggermente in calo rispetto alla chiusura di ieri sera. E sulla scia delle preoccupazioni per il futuro delle misure di sostegno economico della Banca Centrale Americana, ma non solo, anche la Borsa di Tokyo stamattina ha accusato un nuovo ribasso del 4% secco. Non più salvataggi per chi persegue in modo irresponsabile i profitti. Lo afferma il presidente americano Barack Obama, che è intervenuto a Phoenix, ha illustrato la propria ricetta per risollevare il mercato immobiliare, che peraltro, anche se a fasi alterne, sta già dando segni di ripresa abbastanza significativa. Uno dei punti del piano di Obama è la chiusura di Fannie Mae e Freddie Mac, i due colossi del credito ipotecario, lo ricorderete, ne abbiamo parlato tantissimo tra il 2008 e il 2009, nazionalizzati appunto durante la crisi. Ritengo, ha detto Obama, che il sistema immobiliare abbia bisogno di un ruolo limitato del governo. Sono i privati che devono essere l'ossatura del settore. E intanto gli Stati Uniti hanno deciso di l'hanno proprio avviata un'azione legale nei confronti di Bank of America, accusandola di aver ingannato gli investitori sui rischi associati ad $850 milioni di titoli legati ai mutui nel 2008. Saranno appunto le famigerate cartolarizzazioni, lo ricorderete. L'azione è stata avviata nella Corte federale della Carolina del Nord e rappresenta l'ennesimo passo in avanti nell'ambito degli sforzi del Dipartimento di Giustizia per rendere responsabili coloro che hanno avuto una condotta fraudolenta ed irresponsabile. Queste sono state le parole del ministro americano di giustizia Eric Holder. Cosa ha fatto Bank of America? Naturalmente ha replicato a questa causa avviata dagli Stati Uniti nei suoi confronti, dicendo: non siamo responsabili per il crollo del mercato immobiliare. I titoli legati ai mutui, oggetto appunto di questa azione legale, sono stati venduti, ha detto la banca, ad investitori sofisticati ed hanno avuto performance migliori a titoli analoghi. E proseguiamo nelle notizie relative alle società americane, le grandi appunto corporate americane. Vacanze forzate per la maggior parte dei dipendenti della divisione sistemi di IBM, che ha preferito far prendere una settimana di ferie in più piuttosto che optare per misure più estreme come la riduzione del personale. Questa notizia è stata riportata oggi da un sito di informazione finanziaria che si chiama MarketWatch. IBM ha risposto in questo modo ai conti deludenti del secondo trimestre e al calo del 12% del fatturato di questa divisione, che è stata messa sotto osservazione. La società ha comunicato ai dipendenti delle divisioni interessate e a quelli della catena di fornitura integrata che le sostiene che dovranno prendere una settimana supplementare di ferie a partire dal 24 o dal 31 agosto. Non credo che sia una notizia che ci deve stupire più di tanto, perché in realtà molte aziende impongono appunto ai dipendenti di consumare tutte le ferie che hanno a disposizione per non trovarsele appunto sul groppone a fine anno. Andiamo adesso invece in India, dove Raghuram Rajan, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, è stato nominato oggi governatore della Banca Centrale Indiana. Voi direte: perché ci interessa questa notizia? Perché Vi racconto un po' la storia di questo neo governatore. Un anno fa era tornato in India come consulente del governo. È stato uno dei pochi economisti al mondo ad avvertire della crisi finanziaria in cui poi siamo precipitati nel 2008. Nel suo ricco curriculum internazionale c'è anche un saggio scritto nel 2004 insieme all'italiano Luigi Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, in cui esalta un modello di libero mercato guidato dalle idee, capacità individuali ed intraprendenza, invece che dai patrimoni di famiglia e dai vari potentati economici. Andiamo nel Regno Unito. I tassi di interesse in Inghilterra saranno legati al livello di disoccupazione. Lo ha annunciato oggi il governatore della Bank of England, Mark Carney, presentando a Londra un rapporto sulle nuove politiche della banca centrale. I tassi rimarranno quindi bassi sino a quando la percentuale di disoccupazione non raggiungerà la soglia del 7%, attualmente è al 7,8%. Nel Regno Unito una nuova ripresa è in corso, ma è lenta e servirà ancora tempo per tornare ai livelli economici pre-crisi. Lo ha annunciato oggi lo stesso governatore Carney, che prevede una crescita del PIL britannico dello 0,6% nel terzo trimestre di quest'anno. La banca centrale pensa che il paese possa raggiungere una crescita annuale complessiva del 2,6% in 2 anni di tempo. E ritorniamo in Germania, di cui abbiamo parlato anche ieri, perché ricorderete anche qua c'è stata una missione del Fondo Monetario Internazionale che peraltro ha decretato, se la Germania non torna a crescere in maniera soddisfacente, colpa di tutto il resto d'Europa che la rallenta. E allora oggi cos'è successo? Che la produzione industriale tedesca ha mostrato dei forti segnali di ripresa, perché a giugno è cresciuta del 2,4% rispetto al mese precedente, quando aveva segnato un dato negativo, meno 0,8%. Dunque il dato è ben superiore alle stime degli analisti, che avevano preventivato una crescita di appena lo 0,3%. Il commissario europeo all'economia e agli affari economici e monetari, Olli Rehn, appoggia la proposta di svalutazione interna avanzata dal Fondo Monetario Internazionale alla Spagna. In cosa consiste questa idea? Quella di ridurre del 10% gli stipendi per 2 anni. Secondo il Fondo Monetario, questo produrrebbe un incremento del prodotto interno lordo spagnolo fino a 5 punti percentuali ed una diminuzione della disoccupazione di almeno 6-7 punti percentuali. Qualche notizia italiana, poi andiamo al primo approfondimento di oggi. Allora, il primo semestre del 2013 è stato complesso. La crisi istituzionale ha penalizzato gli organi parlamentari e di governo e di conseguenza abbiamo sofferto tutti, ma dal mese di luglio e in questi primi giorni di agosto si cominciano a vedere delle luci e anche i nostri sensori, che sono acutissimi, incominciano a vedere e a favorire una nuova fase. Lo ha affermato il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Antonio Patuè. E a fargli da contraltare invece le indicazioni di Confcommercio, secondo la quale invece si aggrava il credit crunch sulle imprese italiane, soprattutto appunto del settore del commercio, ma anche del turismo e dei servizi, specie quelle di piccole dimensioni e al centro-sud. Oggi è stato diffuso l'osservatorio sul credito di Confcommercio, secondo cui nel secondo trimestre aumentano le imprese che non riescono a far fronte al proprio fabbisogno finanziario e sono sempre meno quelle che si sono viste accogliere nelle richieste di finanziamento, passate dal 29,6% del primo trimestre al 26,9%, la percentuale più bassa mai toccata dal 2009. Considerando il carico fiscale contributivo sostenuto dalle imprese nelle diverse regioni italiane, la sottrazione di base imponibile IVA nel 2011 ammonterebbe a circa 250 miliardi, con una conseguente perdita annua di gettito, naturalmente nei confronti del fisco italiano, nell'ordine di circa 46 miliardi. La rilevazione è stata diffusa oggi dalla Corte dei Conti. L'ultima notizia, una di quelle che ci fanno un po' arrabbiare, ammonta a 91.337,18 euro lordi mensili la pensione più alta erogata dall'INPS. Lo ha reso noto oggi il sottosegretario al welfare Carlo Della Ringa, rispondendo in commissione lavoro della Camera ad un'interrogazione appunto sulle pensioni d'oro. Non si sa chi la percepisce. Secondo però questa top ten previdenziale fornita dal sottosegretario, c'è un bel salto fra il primo e il secondo posto, che che si ferma a soli 66.436,88 euro. Ancora uno scalino per arrivare alla terza sul podio, 51.781. E con questa notizia direi che abbiamo concluso con le notizie veloci e brevi della giornata, il primo approfondimento di oggi. Eccoci qua, allora avrete visto, almeno lo speriamo molti di voi, i titoli più importanti dei giornali di questa mattina e molti enfatizzavano le nuove parole del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, perché in verità questo concetto lo sta ribadendo da qualche settimana. Il ministro Saccomanni ieri ha detto: la recessione è finita, siamo alla svolta del ciclo, nel prossimo trimestre è atteso il segno positivo sull'andamento del prodotto interno lordo dopo 2 anni di caduta. Proprio ieri l'Istat ha comunicato che tra aprile e giugno il PIL italiano ha registrato l'8° ribasso trimestrale consecutivo, lenta però per fortuna la velocità della caduta e si è fermata a meno 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti, quindi meglio rispetto alle attese. Segnali più incoraggianti sono arrivati appunto dal dato sulla produzione industriale, che a giugno ha segnato più 0,3%. Queste cifre sono state commentate questa mattina sulla stampa in un editoriale dal professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Professor Bruni, buonasera. Buonasera. Le posso subito chiedere se lei è tra quelli che vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Beh, insomma, siamo a metà appunto al momento con gli indicatori, anche se i segni di ripresa ci sono. Il problema è che bisogna che vengano confermati sia dall'evoluzione positiva dello scenario politico, sia da una serie di provvedimenti, sia da, diciamo, da delle condizioni internazionali che rimangano positive o addirittura migliorino e non peggiorino invece, sia da una serie di provvedimenti che il governo deve prendere al più presto per dare corpo alle intenzioni che ancora non si sono viste. In particolare bisogna risolvere questi nodi dell'IMU e dell'IVA che creano molta incertezza. Bisogna in qualche modo ridurre la tassazione sui redditi più bassi e il cuneo fra salari e costo del lavoro. Quindi anche lei ha indicato le sue priorità, professor Bruni. Tra l'altro lei appunto nel suo editoriale di questa mattina commenta i dati che davamo prima, ma dice anche: miglioramenti sulle condizioni di salute dell'economia italiana risultano anche da evidenze meno ufficiali. Quali sono, professor Bruno? Ce le renda trasparenti. Beh, ci sono tante imprese che nei settori soprattutto, diciamo, molto qualificate, che esportano prodotti di alto valore aggiunto e di buona tecnologia, in cui gli italiani hanno delle eccellenze, stanno andando bene, e ce ne sono altre che si stanno attrezzando per andare meglio, insistendo di più nella ricerca da una parte, nel marketing dall'altro. Quindi gli italiani e soprattutto il settore privato, soprattutto le imprese più vivaci, si stanno dando da fare per migliorare la loro posizione. Purtroppo c'è tutta una parte dell'economia italiana, prevalentemente il settore pubblico, la pubblica amministrazione, che ancora rimane seduta, tendendo a mantenere le posizioni precedenti e rendendo quindi nel complesso l'efficienza del nostro sistema economico inferiore a quella che potrebbe essere. C'è un'altra frase molto bella che lei scrive sull'editoriale di questa mattina, che lo ricordo, si intitola "Il passo che manca per la ripresa". Con grande travaglio e attorno al triste serbatoio della disoccupazione cambiano le imprese, la gente cambia mestieri, si adatta ai cambiamenti del mondo. Quali sono i cambiamenti più importanti, appunto, professor Bruni, che registreremo qualora questo tunnel appunto finisse, non in tempi brevi purtroppo appunto, ma il nostro tessuto industriale, quali sono appunto i cambiamenti più radicali, più importanti che sta facendo per adeguarsi anche alle nuove scommesse internazionali, come lei diceva? è proprio la scommessa internazionale il punto nuovo, quello che è cambiato nel mondo ormai 15-20 anni fa, che c'è stata una grande apertura della competizione internazionale in cui noi dobbiamo ritrovare i nostri punti di forza, le nostre specializzazioni, quindi ognuno deve reinventarsi, reinventare la propria impresa, adeguarsi alle migliori pratiche, ai migliori modelli che ci sono in giro, ma questo vuol dire abbandonare le proprie rendite di posizione a favore di una maggiore apertura e di una minore fiducia nel fatto che i privilegi che ci sono oggi possono continuare ad esserci, quindi bisogna reinventarsi un po' tutti, compresi noi professori che fino a poco tempo fa potevamo continuare a insegnare le stesse cose magari tutte in italiano, sempre negli stessi posti, raccontando delle cose che oggi non ci ascoltano più i ragazzi, vanno a studiare all'estero se non ci reinventiamo il modo con cui insegniamo. Quindi una sfida davvero per tutti a 360 gradi. Qual è il compito europeo appunto in questo, se vogliamo, anche aiuto a quei paesi che sono rimasti più indietro in una crisi che naturalmente ha lasciato in difficoltà molte economie? Lei scrive stamattina: bisogna proseguire verso una maggiore integrazione che è già iniziata da 2 anni, ma che naturalmente ha segnato il passo molto spesso in questo frangente. Professor Bruni, come l'Europa deve accoglierci? L'Europa deve dare il quadro che accoglie, un po' deve aprire le braccia, insomma noi siamo tutti noi i paesi europei siamo in fondo dei piccoli paesi, chi è un po' più piccolo, chi è un po' meno, che facciamo dei grandi sforzi per ottenere un risultato che è al di sopra delle nostre forze, ma che vuol dire adattarsi ad un mondo molto più complicato. Se però ci integriamo di più, tutti insieme ce la facciamo, abbiamo un grande mercato interno che ci può aiutare, abbiamo grandi capacità di redistribuire le nostre attività in modo competitivo nel mondo. L'Europa deve dare fiducia che c'è un quadro di insieme che ci accoglie se noi ci sforziamo abbastanza. Il disegno è stato fatto perché nel 2012 più o meno, 2011-2012 è stato disegnato un quadro di maggiore integrazione finanziaria, fiscale, addirittura di una trasformazione, diciamo, delle istituzioni europee in senso più democratico, quindi abbiamo sulla carta i progetti, per esempio il prossimo urgentissimo è quello dell'unione bancaria, quindi di un trattamento identico di tutte le banche europee per quanto riguarda le regole della correttezza, della sicurezza, della valutazione del rischio, della vigilanza. Ecco, tutto questo renderebbe il sistema bancario europeo più efficiente, più stabile, più al servizio delle nostre imprese, della nostra crescita. Ma se l'Europa non è troppo lenta e incerta nel darci questa prospettiva, viene a mancare anche all'interno di ciascuno dei nostri paesi la forza e l'ambizione di potercela fare. Allora, stavo intanto, professor Bruni, guardando i messaggi che ci arrivano da parte dei nostri ascoltatori, che naturalmente quando commentiamo questi temi la vedono in maniera evidentemente contrapposta, e credo che questo sia molto da relazionare anche al posto in cui si vive e al tessuto appunto economico nel quale si opera. C'è un ascoltatore che chiede: lei non pensa che la produzione industriale, che abbiamo detto prima, sia aumentata perché c'è stata anche una reazione psicologica positiva al rinvio dell'aumento dell'IVA? Può esserci stato anche questo fattore, professor Bruni? Ma non credo francamente che la produzione industriale risenta di questo aspetto. L'aumento dell'IVA non avrebbe un effetto negativo, senz'altro, sull'industria, avrebbe tutt'al più un qualche piccolo effetto inflazionistico, ma non molto grosso in una situazione di domanda debole come oggi. Probabilmente si scaricherebbe in qualcuno dei passaggi intermedi che i beni attraversano dalla produzione al consumo, quindi ci sarebbe qualche commerciante probabilmente che ci va di mezzo, ma forse anche sarebbe il commerciante meno utile, insomma quello i cui margini sono più margini di rendita e meno margini di valore aggiunto. Professor Bruni, io devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è terminato, Focus Economia in estate dura un po' meno, la ringrazio per essere stato con noi, ma torneremo sicuramente più presto a commentare i temi economici della giornata. Vi invito a vedere, appunto, a leggere questo editoriale, perché tra l'altro c'è anche una richiesta di maggior coraggio indirizzato al governo. Ci serve un paese, dice il professor Bruni, dove nel giro di 24 24 ore. Qualcuno possa decidere, e si elencano là tutti gli esempi in cui è necessario attivismo governativo. Ci fermiamo, adesso abbiamo la nostra prima pausa. 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, siccome siamo molto in ritardo, abbiamo ancora molte cose da raccontare, saluto subito Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia. Presidente, buonasera. Buonasera. Allora, prima di dirci quello che avete fatto oggi voi in relazione a questo provvedimento sul tema della certificazione energetica della casa, la dico in maniera molto banale, presidente, così la spieghiamo bene ai nostri ascoltatori, riprendiamo un po' le redini di tutto l'argomento. Allora, questa certificazione energetica della casa è già da qualche anno che deve essere sostanzialmente allegata ai contratti di compravendita immobiliare e anche ai contratti appunto d'affitto. Mi ricordo male? Mi sembra già dal 2009. Questo sì, sul piano generale è esatto, però succede che questa è una materia concorrente, quindi di competenza sia dello Stato che delle regioni, e quindi le regioni hanno legiferato in vario modo, alcuni prevedendo anche per i contratti di locazione, altri non prevedendoli, altro prevedendo questa allegazione ma senza comminare sanzioni, e quindi c'era una situazione assolutamente variegata. Ecco. Ecco, in questa situazione variegata che cosa è successo? Che ad inizio giugno è stato approvato appunto il famoso provvedimento che ha reintrodotto e esteso anche gli ecobonus, un tema che abbiamo affrontato tante volte, e all'interno di questo provvedimento c'è stato anche il cambiamento del nome dell'attestato di certificazione energetica, che era l'ACE, adesso è diventato attestato di prestazione energetica APE. E questa era la seconda novità, presidente, giusto? Certamente, naturalmente non è solo un cambiamento di nome, ma è un cambiamento anche di sostanza. Di sostanza, ma molto pesante, nel senso che gli aggravi per la proprietà edilizia che vende o che loca sono notevoli rispetto a quelli che invece si dovevano subire con l'attestato di certificazione energetica. Nella sostanza, appunto, all'interno del provvedimento sugli ecobonus, il governo che cosa ha fatto? Ha detto, qualora in una provvedimento in un atto di compravendita, se questo attestato di prestazione energetica non viene allegato, visto che adesso è obbligatorio farlo, addirittura si può considerare il contratto di compravendita nullo. E visto che in questi giorni questo decreto è stato convertito in legge, voi che cosa avete fatto, presidente? Ma volevo dire che questo emendamento che è stato approvato alla Camera, quindi in seconda lettura dopo l'approvazione del decreto energia nelle sue linee più generali e complesse al Senato, questo emendamento è stato votato dalla maggioranza su parere favorevole del governo, ma non era di iniziativa di quest'ultimo, era di iniziativa del Movimento 5 Stelle. Un blitz di una forza politica. Sì. Questo emendamento prevede che, come lei ha già riferito giustamente, che si ha nullità dei contratti sia di locazione che di compravendita che non recano allegato l'attestato di prestazione energetica testualmente, il che significa che deve essere allegato il nuovo attestato stabilito appunto all'inizio di giugno. Che però non è stato ancora completamente, come dire, normato, regolato. Esattamente, questo attestato di prestazione energetica ha bisogno per potersi redigere da parte dei certificatori autorizzati, ha bisogno di un decreto ministeriale che deve appunto fissare esattamente in che cosa deve consistere, fissandone tutti i criteri per la redazione, eccetera. Quindi in sostanza, con anche poi, tra l'altro, presidente, nuovo intervento delle regioni in merito? Ah, certamente, poi saranno sempre le regioni che poi hanno in sostanza la prevalenza qualora i loro provvedimenti siano sempre nell'ambito delle norme generali stabilite dal governo, dallo Stato. Certo. E quindi no, beh, poi si dovrà vedere anche come verrà come verrà normato dalle singole regioni, però addirittura manca ancora anche quella normativa che deve essere redatta dallo Stato e nel cui ambito poi possono muoversi le regioni. Quindi nella sostanza dovrebbero essere allegati ai nuovi contratti di compravendita o a nuovi contratti appunto di affitto questi attestati di prestazione energetica che non si sa ancora teoricamente come devono essere compilati. Ho ben analizzato tutto. Ecco perché voi l'avete chiamato un pasticcio e proprio perché è un pasticcio avete detto a tutti i vostri associati sul territorio: fermi, non fate più nessun contratto. Perché appunto fino a quando le cose non si chiariranno, ma che ricadute può avere questa situazione, Presidente, oltre alla vostra iniziativa piuttosto forte subito, di oggi? Le dico subito, noi abbiamo dovuto emanare queste istruzioni per le nostre associazioni territoriali, perché se avessero continuato a fare dei contratti, i contratti sarebbero stati letteralmente nulli appunto per il disposto di quell'emendamento di origine grillina che oggi è entrato in vigore, non oggi come oggi, ma che è oggi in vigore, e abbiamo dovuto fare questo appunto a salvaguardia anche dei singoli locatori e degli stessi inquilini che si troverebbero a poter essere escomiati a seguito della nullità del contratto di locazione da loro stabilito. Allora, potrebbe durare la cosa. Esatto, state facendo un po' di pressione perché le cose possano cambiare? Ma devo dire che c'è già un impegno che ha assunto il sottosegretario Baretta al Senato quando il provvedimento è andato in seconda lettura, davanti alle proteste di molti senatori e alla presentazione di emendamenti abrogativi della disposizione, chiamiamola grillina, tanto per fare chiarezza dal punto di vista terminologico, per indicare con esattezza a che tipo di provvedimento stiamo pensando, il sottosegretario Baretta, davanti a questa sollevazione da parte di diversi parlamentari del pasticcio, ecco, ha assunto l'impegno, devo dire che al Senato anche i grillini che si erano accorti dell'errore che avevano fatto i loro colleghi della Camera si erano schierati anch'essi per l'abrogazione del provvedimento approvato alla Camera sulla nullità. Il governo, ripeto, ha preso impegno di rimuoverlo. Benissimo. Il primo provvedimento che sembra utile, fornire un strumento utile per la rimozione, potrebbe essere il decreto legge del fare numero 2, che è attualmente in preparazione ad opera del Ministero dell'Economia e Benissimo. Di qualche altro ministero. Presidente, speriamo che sì, riescano. No, anche perché guardi, le dico che ci sono già degli ascoltatori che ci stanno scrivendo che sono un po' innervositi da questa situazione, perché magari c'è qualcuno che questa certificazione l'ha fatta di recente, non vorrei che abbia speso appunto dei soldi inutilmente, perché bisogna fare qualcosa di un altro tipo e bisogna anche sbrigarsi a farla, perché magari appunto il documento che si ha in mano non vale ai fini appunto della compravendita che si deve finalizzare nel giro di poco tempo. Presidente, grazie intanto per averci aiutato a chiarire il pasticcio di oggi. Speriamo che venga richiarito di nuovo nelle sedi opportune prossimamente. Devo andare velocemente a fare la borsa. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Eravamo alle prese con la certificazione energetica delle case, appunto. Intanto Milano oggi più 0,9% ha distaccato di netto tutte le altre piazze, sia quelle positive, Parigi chiude con un più 0,15%, ma soprattutto le altre che invece chiudono con il segno meno. Molto bene Telecom Italia, cominciamo da qui, più 4,42%, un recupero banale o c'è qualche notizia? Ma diciamo che sicuramente è un recupero, un rimbalzo dopo giorni di difficoltà. Per la verità, le cose che oggi ha rilanciato Sole 24 Ore, cioè l'ipotesi addirittura di un taglio di rating, o il timore di un taglio di rating da parte di Moody's, o se non altro di un giudizio in vista di una modifica in negativo del rating di Telecom, avrebbe potuto penalizzare ulteriormente il titolo, c'è qualche aspetto che gli analisti e gli operatori hanno osservato, cioè la possibilità che sottolinea il Sole 24 Ore che Telecom possa dar vita a un aumento di capitale però riservato a un nuovo socio. Il management ha escluso un aumento di capitale sul mercato, ma le trattative, come è stato in passato l'interessamento di Saviris e poi di H3G, potrebbero poi portare eventualmente un nuovo socio. Sì, forse perché... un elemento flebile per spiegare il rimbalzo di oggi, ma così è stato. Vorrei vedere tra l'altro anche se facesse un aumento di capitale sul mercato tra i piccoli azionisti che hanno perso un sacco di soldi, chi aderirebbe ad un'operazione del genere. Allora, tra gli altri titoli più alti in rialzo maggiore, Popolare dell'Emilia Romagna più 3,95, Banco Popolare più 3,42, Ubibanca più 2,64, Unicredit più 2,49%. Vi racconteremo di Unicredit dopo i suggerimenti per chi in viaggio. Ancora gli altri temi della giornata a Piazza Affari con Andrea Fontana. Allora, lasciamo fuori per il momento Saipem, meno 2,23%. Andrea, perché ne parlerò tra poco con Stefano Elli del Sole 24 Ore sulle ultime vicende di questa società. Mediaset, prese di profitto in arrivo, meno 2,75%, ma certo che prima di frenare la corsa degli ultimi giorni ce ne vuole ancora, però avevo promesso di parlare di Unicredit. Sì, per quanto riguarda Unicredit, diciamo che i conti semestrali sono stati superiori alle attese, per cui molte case di investimento hanno rivisto in positivo o comunque confermato una visione positiva sul titolo. È il bancario che è il titolo bancario che dall'inizio dell'anno ha guadagnato di più, ma evidentemente le case d'affari vedono ancora spazi di crescita, soprattutto alla luce di questi conti e del miglioramento degli utili. Dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 18%, oggi ha guadagnato il 2,5%, è stato un po' uno dei traini della borsa di Milano, i conti di Unicredit e anche degli altri titoli bancari tutti positivi, come tu ricordavi, attesa anche di Monte dei Paschi. In attesa di Monte dei Paschi, che inizialmente per la gran parte della giornata è stata piuttosto timida nel suo rialzo, invece poi ha chiuso con un buon rialzo del vicino al 2%, più 1,8% in chiusura. Tra l'altro bisognerà vedere anche appunto nei conti se ci saranno poi delle indicazioni da parte di Alessandro Profumo su queste modifiche al piano di ristrutturazione che ha chiesto la Commissione europea, per cui anche questo è un tema molto importante. Fra gli altri rialzi, Mediobanca più 2, Intesa San Paolo più 1,99%, Enel più 1,86%, Popolare di Milano più 1,81%, Generali più 1,43%. Ci sono delle banche però che sono state in difficoltà negli ultimi giorni, un po' a causa anche di movimenti appunto ai vertici. Banca Carige oggi come si è comportata tra i titoli minori, Andrea? Beh, oggi un ottimo rimbalzo, più 4,4%, era un titolo che non poteva continuare a perdere in quel modo dopo lo scossone ai vertici con le dimissioni in massa di molti consiglieri d'amministrazione, quindi venir meno appunto del consiglio di amministrazione che dovrà essere rinnovato. Diciamo che l'indiscrezione circolata tra ieri e oggi sui giornali e sul mercato di una possibile trattativa con Unipol interessata a rilevare una quota importante nell'azionariato della banca ha dato certamente la scossa al rialzo di oggi, più 4,5%, ma lì si sta ormai combattendo una battaglia tra, diciamo così, il vertice più alto della banca, cioè il presidente Berneschi, e l'azionista di riferimento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova. È chiaro che gli equilibri che usciranno da questo scontro o da una riappacificazione, se questa ci sarà, diranno molto su come poi effettivamente si potrà risolvere il problema di questa banca, che ricordiamo su cui pende il rischio di un aumento di capitale da 800 milioni. Grazie ad Andrea Fontana. Un ascoltatore ci chiede notizie su Valsoia, miglior titolo del listino in assoluto, oggi più 8,92%. Per quello che riguarda invece della questione dell'attestato appunto della certificazione energetica delle abitazioni, anzi per l'esattezza la nuova APE, il certificato della prestazione energetica, lo dico agli ascoltatori, non ne parlerò domani a Salvadanaio, anche perché fino a quando la situazione è così confusa direi di lasciare in sospeso, ne parleremo quando avremo un quadro certo, ma entro la fine di agosto sicuramente vi aggiorneremo sull'argomento. Adesso l'ultimo approfondimento di oggi. che è un tema di finanza, peraltro, un tema di Piazza Affari, lo anticipavo poco fa, giornata di nuovo storta per Saipem, meno 2,23%, niente a che vedere con quella giornata nerissima di gennaio quando perse il titolo quasi il 40% o di più o di meno Stefano Elli, non me lo ricordo, il primo profit warning appunto nell'anno, poi ne lanciò anche un altro e un po' tutte queste notizie stanno venendo, sono nodi che stanno venendo al pettine proprio da qualche settimana a questa parte. Allora, l'ultima notizia, poi andremo al fronte giudiziario, ma parliamo soprattutto di quella finanziaria. La Consob ha messo, come dire, riflettore acceso sul bilancio del 2012. Per quale motivo appunto il presidente Vegas ha deciso di appunto mettere sotto osservazione, attivarsi con questo procedimento di contestazione del bilancio 2012? Essenzialmente perché avrebbero dovuto essere contabilizzate nel bilancio precedente, cioè nell'esercizio precedente rispetto a quelle in cui sono questi state 630 milioni di euro. Esatto. E quindi insomma primo rilievo, ma andiamo al punto di vista giudiziario. Allora, c'è stato questo arresto abbastanza importante che sarebbe avvenuto alla fine di luglio, ma di cui si è avuta notizia solo nelle ultime ore. L'ex manager Pietro Varone aveva anche un incarico piuttosto complesso, il CEO, Chief of Operating Officer, ma ha di fatto il braccio operativo delle operazioni all'estero del gruppo Saipem. Allora, intanto, come mai questa notizia si è saputa solo da così poco, Stefano? Sono stati molto bravi gli inquirenti. Ecco, per una volta tanto non hanno spettacolarizzato la notizia, perché poi tanto la colpa ricade su di noi, come sai. Oltretutto c'erano anche due altri cittadini stranieri che sono oggetto della stessa misura di custodia cautelare, che sono appunto Samir Urayed e però Farid dei ruoli Bejawi. Molto chiari. Esatto. Ed eccoci qua. Allora, come dire, c'è un quadro di tangenti da chiarire. Il quadro di tangenti è da chiarire, sicuramente. Innanzitutto va detto che il 12 di agosto, cioè lunedì prossimo, si terrà la seduta del Tribunale del Riesame, come richiesto dai legali di Varone, che hanno evidentemente chiesto il rilascio del manager, dell'ex manager di Saipem, perché ritengono la misura di custodia cautelare eccessiva rispetto al ruolo giocato dal Varone nell'intera vicenda. La vicenda è quella di appalti in Algeria, se non mi ricordo male. La vicenda è oggetto di 7 contratti che sono stati stipulati prima da... prima era in realtà Snam Progetti, che poi si è incorporata in Saipem, e gli effetti di quei contratti all'inizio erano stati proprio sottoscritti da Snap Progetti, quindi si parla del 2007 perché l'incorporazione era stata poi, diciamo, disegnata definitivamente nel 2008. Mm-hmm. Allora, no, stavo tra l'altro cercando di ricordare quando qualche mese fa commentavamo le prime notizie su questa inchiesta giudiziaria, e molti ascoltatori appunto continuano ad osservarlo anche oggi, dicono, ma insomma, per prendere dei contratti in quei paesi è normale che si paghino delle tangenti, e noi avevamo chiarito, il problema è che queste in qualche maniera rientravano in Italia. Stefano, a che punto è l'inchiesta in questo momento? Dunque, allora, l'inchiesta sta valutando quali sono stati i canali in cui si sono diretti i vari filoni di soldi. E in particolare abbiamo visto che c'è una complessissima architettura di società offshore. Una società in particolare, da cui noi la chiamiamo il perno di tutte le vicende, che si chiama la Pearl Partners Limited, ce ne eravamo occupati già tempo fa, una società con base a Hong Kong ma filiali anche negli Emirati Arabi Uniti. E questa società in realtà sin dal 2007 aveva rapporti appunto con Varone, che già ai tempi di Snam Progetti era personaggio, diciamo, di spicco all'interno dell'organigramma della società. Ora, la cosa abbastanza curiosa che emerge dalle carte dell'inchiesta, in particolare dall'ordinanza di custodia cautelare, è come in realtà questi contratti di intermediazione che vengono sottoscritti con queste società sono soggette a un controllo molto stringente in ordine alla audit, alla compliance e alla veridicità dei soggetti. La cosa curiosa è quella che si legge a pagina 27 dell'ordinanza di custodia cautelare. A carico di Varone? A carico di Varone e a carico degli altri due soggetti, uno libanese, tunisino con naturalizzato svizzero, e l'altro algerino. Dunque, è certo che, scrive il giudice Alfonso Ferraro, che i contratti di intermediazione stipulati tra Saipem e Pearl Partners siano stati solo una copertura documentale per permettere la fuoriuscita di denaro da Saipem. recita ancora, questa società, cioè la Pearl Partners, segnatamente nella sua filiale di Fujairah negli Emirati, non vi è traccia alcuna nelle fonti pubblicamente accessibili, neppure un sito web o un recapito, e che nessuna documentazione sia stata reperita presso Saipem Spa a sostegno dell'effettività delle attività svolte da Pearl Partners. Formalmente, continua il magistrato, cioè il giudice, le procedure interne sono state, come logico attendersi, rispettate, cioè le procedure interne a Saipem, ciò che non ha portato però ad alcun rilievo o contestazione sostanziale a carico di chi che sia. Quindi, sintetizzando, visto che stiamo chiudendo, Stefano, cosa implica appunto questa implica questo che passaggio? C'è stato un blackout nei controlli interni, in buona sostanza, e questo probabilmente ha fatto sì che l'indagine venisse estesa anche ad altri elementi del manager. I magistrati stanno appurando se questo blackout sia stato in buona fede o meno. Certo. Ecco. Molto bene, grazie per essere stato con noi. A Stefano grazie Elli, a Focus Economia anche per questa sera termina qui. Ascoltatori ci chiedono ancora l'andamento di altri titoli, tutti in rosso, quelli della galassia Fiat, così siete contenti, ma di poco, -0,3, -0,4%, lo spread fra BTP e Bund oggi si è orientato intorno ai 260 punti base. Sono usciti intanto i dati del Monte dei Paschi, che archivia il semestre con un rosso di 380 milioni di euro, peggiore delle attese degli analisti, il dato si confronta con la perdita di 1,5 miliardi di un anno fa. Vedremo domattina Piazza Affari come commenterà questi dati, come reagirà a questi dati. Intanto grazie a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Valeria Bernardi in assistenza tecnica. Vi ricordo domani sul Sole 24 Ore un inserto speciale sul bonus casa e gli sconti per il risparmio energetico. A tutti, buona serata. Radio 24, la passione si sente.